Il granello non è rimasto solo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versetti da 24 a 26. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Tutto sembrava mettersi bene per Gesù quando entrò in Gerusalemme trionfante, accolto da una folla che diceva: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Re di Israele. La risurrezione di Lazzaro aveva contribuito ad attirare molte persone e il successo sembrava destinato ad espandersi quando alcuni greci si avvicinarono dicendo: Vorremmo vedere Gesù. Questo è scritto nei versetti precedenti. A questo punto i discepoli andarono a dirlo a Gesù. Sembrava proprio il momento di cavalcare l'onda del successo. Gesù poteva approfittare di quel momento di straordinaria popolarità ed incrementarla ancora, magari con qualche sensazionale miracolo. Ma egli diede proprio la risposta che meno ci si sarebbe aspettati. L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Ma come? Perché? Ma Gesù, diglielo che sei il re, lascia che la tua fama si espanda. Magari fai un altro miracolo come quello con cui hai risorto Lazzaro e poi lascia che ti incoronino re. Ma Gesù sapeva che il granello di frumento deve morire per portare frutto. Era venuto il momento di portare a compimento la sua missione. Anche quei greci che avevano voluto incontrarlo avrebbero ottenuto salvezza solo se il granello fosse morto. Da quel momento tutto cambiò. Il Cristo che diceva di dover morire non piaceva più alla folla. La gente era confusa, non era quello il tipo di re che si aspettavano, il condottiero che avrebbero voluto seguire. Invece di farsi incoronare, parla di morte. E non solo, egli diceva che coloro che avrebbero voluto servirlo non avrebbero dovuto cercare la propria soddisfazione in questa vita, ma avrebbero dovuto seguire il suo esempio. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Tutto questo era inaccettabile. Dopo pochi giorni tutti si sarebbero trovati d'accordo quando sarebbe stato inchiodato su una croce. Nessuno fu dalla sua parte. Ma egli aveva detto la verità. Era necessario che il Re dei Re rinunciasse alla fama, al successo e andasse avanti fino a dare la sua vita sulla croce. Era necessario che il granello di frumento cadesse in terra per portare frutto e il raccolto è stato grande. Ringrazio il Signore perché anche io sono un frutto di quel granello di frumento caduto in terra. Il granello non è rimasto solo.